Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Ogni sera mi addormento con il cuore ben contento di ascoltare l'indomani, il Meazza e la Rosciani. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Manche Land erfecke la Marmotte und immer was zu essen fand erfecke la Marmotte erfecke sie erfecke la Marmotte erfecke sie erfecke la Marmotte. Allora, il Covid sta decisamente facendo sbizzarrire la creatività di Marco Lombardo, l'autore del nostro programma, che saluto e che ringrazio insieme a Gianmarco Ferronato in regia questa mattina, perché ci ha proposto, per introdurre la prima notizia della mattinata, questo lead composto da Ludwig van Beethoven, che amava le passeggiate in montagna e compose proprio questo lead, mi hanno detto che si chiama così in gergo musicale classico, per voce e pianoforte, dedicato proprio a questo simpatico animaletto, la marmotta. Allora, perché abbiamo scomodato, si rivolterà nella tomba Beethoven per introdurre la prima notizia di questa mattina? Perché vi volevo raccontare quello che è successo a Vanzaghello. Vanzaghello è un paese del milanese, dove praticamente al condizionale, perché poi gli autori di questa impresa sono stati anche arrestati, c'è stato un assalto ad un bancomat e i tre malviventi che si sono resi protagonisti di questa operazione hanno fatto saltare lo sportello con la tecnica della marmotta e hanno provato naturalmente a fuggire con il bottino. Praticamente la tecnica consiste in questo: hanno riempito un contenitore metallico con dell'esplosivo, poi lo hanno inserito nello sportello del bancomat per poterlo così ripulire, e hanno portato via il denaro davvero in pochi minuti. Però dopo il colpo i tre uomini, sarebbero stati in tre, hanno iniziato a vagare con una macchina in cerca di un altro obiettivo da saccheggiare. Non contenti, si sono rifugiati in un garage di Cernusco sul Naviglio, dove però sono stati pizzicati dai carabinieri. E vabbè, che sudata per raccontare questa notizia. Tutto questo per introdurre il termine bancomat, e sarà un po', come dire, questo il tema che affronteremo nella seconda parte del programma. Oggi è martedì e ritorna il nostro alfabeto del risparmio, le scelte per ripartire, la nostra rubrica del martedì in collaborazione con il Comitato Edufin, il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, perché parleremo proprio di moneta elettronica di pagamento, bancomat, carta di credito, tutto quello che serve per rendere tracciabili sicuramente i pagamenti, per combattere l'evasione fiscale, e che sono in questo momento, lo saranno dei prossimi mesi, al centro della grande operazione che il governo sta facendo partire di cashback. E allora 800 24 00 24, il numero verde per comporre, da comporre appunto per intervenire in diretta se vorrete, per chiederci dei chiarimenti sulle carte di pagamento, se qualche cosa non vi è chiaro, perché sappiate che in effetti in Italia, anche se in molti utilizziamo la carta di credito o il bancomat per i nostri pagamenti, per la verità ci sono ancora tantissimi irriducibili del contante. È un tema che affrontiamo spesso e che vi vede anche molto sensibili. Noi questa mattina faremo un punto della situazione, soprattutto per cercare di capire quali sono le principali abitudini di pagamento fra i ragazzi, fra i giovani, e che grado di conoscenza hanno degli strumenti elettronici di pagamento. Sarà con noi Giovanna Boggio Robutti, direttore generale della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, la FEDUF, che è partner, appunto è membro del Comitato Edufin. Il numero verde per intervenire in diretta ve l'ho ricordato, potete utilizzare anche il 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi, per i vostri messaggi su WhatsApp, anche di natura vocale, che ci rallegrano tantissimo la trasmissione. Naturalmente l'immancabile saluto al nostro Mauro Meazza, che tornerà al più presto tra di noi, anche perché, guarda Mauro, qua le notizie fiscali sono sempre di più e io qualcuna semplice la posso anche raccontare, ma è un mondo con il quale, come sai, non mi confronto proprio con grande semplicità e quindi avrei proprio bisogno del tuo aiuto. Ti chiedo di tornare presto, ma naturalmente soprattutto ti salutiamo tutti con grande affetto. Detto questo, che si fa? Partiamo con il giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Allora, il Covid-19 viene considerato causa di forza maggiore se, in vista della scadenza appunto del termine, non si riesce ad adibire l'unità immobiliare che si è acquistata ad effettiva abitazione principale entro un anno dall'acquisto. E come sapete questa è una condizione importante per poter ottenere tutte le detrazioni fiscali che agevolano proprio l'acquisto della casa se questa diventa prima casa. Allora, lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con una risposta, la 485 di quest'anno del 19 ottobre, ad un interpello proposto da un contribuente che aveva acquistato una unità immobiliare adiacente alla sua abitazione principale da accorpare con la stessa, ma non era poi riuscito a terminare tutte le procedure necessarie entro un anno dal rogito d'acquisto e dalla contestuale appunto stipula del mutuo e quindi rischiava di perdere la detrazione proprio sul mutuo casa. L'Agenzia delle Entrate invece ha detto: no, stai tranquillo che con il Covid qua sono saltate tutte le nostre certezze, e quindi gli ha fatto sapere di ritenere che la pandemia da Covid-19, essendo stato un ostacolo all'adempimento di questa obbligazione, può essere considerata quella causa di forza maggiore che ha impedito al contribuente di accorpare la casa che ha comprato all'immobile, quindi di far diventare tutto prima casa, quindi chiaramente può stare tranquillo da quello che capiamo, e chissà quanti di voi si trovano nella stessa situazione. Un'altra notizia che vi voglio raccontare riguarda il mondo delle assicurazioni. Ieri c'è stata l'assemblea dell'ANIA, l'assemblea annuale dell'ANIA, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazioni, e sono state dette tante cose interessanti, tante cose che riguardano anche noi consumatori. Allora, intanto la presidente dell'ANIA, Maria Bianca Farina, ha detto: il mondo delle assicurazioni è al fianco delle istituzioni e delle imprese per rilanciare la ripresa del paese scosso quest'anno dall'emergenza Covid. Snocciolando alcuni dati, che cosa è emerso? È emerso per esempio che 2.600.000 veicoli in Italia circolano senza la copertura assicurativa, e questa quindi è una cifra aggiornata che secondo noi è anche del preoccupante. È un fenomeno che va contrastato attivamente con l'uso anche della tecnologia, ha sollecitato la presidente di ANIA. Per quanto riguarda poi l'impatto del lockdown sul settore, il presidente di IVAS, l'Istituto di Vigilanza sul Mercato Assicurativo, che ha partecipato all'assemblea, si chiama Franco, ha fatto presente che nel primo semestre di quest'anno la raccolta premi complessiva è diminuita di circa 9 punti percentuali rispetto all'anno prima, da 70 a 64 miliardi, con la flessione principalmente ascrivibile al settore vita, meno polizze vita stipulate dagli italiani. La raccolta in questo settore si è ridotta addirittura del 10%, mentre i premi RC auto sono calati di oltre il 5% nei primi 8 mesi dell'anno. Sapete anche che cosa è successo, ne abbiamo fatto anche approfondimento del nostro programma, con praticamente il lockdown, con le milioni di auto che non sono circolate, chiaramente molti meno sinistri. Questo è stato un tema che si è abbattuto positivamente anche sulle tariffe applicate. Ci sono state anche molte iniziative da parte delle compagnie che si sono rese disponibili nei confronti dei consumatori a magari ridurre i premi, o hanno per esempio erogato una sorta di piccolo bonus al lato di rinnovo appunto delle polizze, e questo naturalmente per venire incontro a tutte quelle persone che effettivamente, come se non avessero consumato e utilizzato l'assicurazione dovendola tenere ferma in lockdown. Un'altra cosa interessante che è stata detta: il tasso di penetrazione della scatola nera in Italia, la black box, è il più alto tra i paesi occidentali, pari al 22%, con punte del 60% in alcune province italiane. La black box, come sapete, la scatola nera, è quel dispositivo che si può installare nella nostra abitazione che consente alla compagnia in qualche maniera un po' anche di tracciare i nostri comportamenti, ma soprattutto di ricostruire le dinamiche di incidenti con maggior grado di dettaglio nel caso in cui fossimo malcapitate vittime appunto proprio di sinistri e di incidenti stradali, e quindi poi chiaramente anche l'erogazione dei risarcimenti può essere effettuata in maniera più puntuale. Un'ultima notizia: internet tabù per 3,5 milioni di famiglie italiane, lo scrive oggi il Sole 24 Ore in un pezzo di Andrea Biondi e Carmine Fotina. Erano l'85,9% a fine 2019, ma in pochi mesi dopo il lockdown le famiglie con collegamento ad internet sono salite all'88,4% luglio 2020. Facendo solo un rapido giro all'indietro, c'è però un dato che, scrivono i colleghi, inevitabilmente frena gli entusiasmi in Italia. Nel 2019 3,5 milioni di famiglie non disponevano di collegamento ad internet. Questi sono dati che sono contenuti nel rapporto Auditel Censis presentato ieri a Roma dal titolo L'Italia post lockdown, la nuova normalità digitale delle famiglie italiane. Quello che emerge è il racconto di un paese che ha saputo trasformare la lunga quarantena in una leva per accrescere le proprie competenze tecnologiche, a dispetto di una narrazione ricorrente di una società troppo anziana per andare verso il cambiamento. Però ancora questi 3,5 milioni di famiglie italiane ci sono, probabilmente anche un po' colpa del fatto che tante zone nel nostro paese non sono raggiunte da servizi digitali adeguati, e questo chiaramente è un altro tema che frena moltissimo. Allora, le notizie in breve, quelle che almeno ci piacevano di più e che abbiamo scelto questa mattina, ve le abbiamo date, ma adesso abbiamo anche il nostro sportello reclami. Dillo a due di denari. Buongiorno. Vorrei capire, avendo una famiglia di 7 persone, di cui io soltanto lavoratore, sono 5 figli, 2 della mia ex moglie nel nucleo familiare sempre e 3 nostre, ISEE sotto i 6.000 euro, io sono statale, prendo poco perché vengo riconosciuto soltanto per i 3 figli nostri. Cosa cambia con le disposizioni nuove dell'assegno unico familiare? Gentile ascoltatore, intanto complimenti per la famiglia numerosa ed allargata. Allora, noi sappiamo qualcosa, abbiamo qualche informazione, ma come lei avrà avuto modo di sentire, perché ne abbiamo parlato anche qui a Due di Denari, tutto l'impianto dell'assegno unico universale parte dal 1 luglio dell'anno prossimo, per cui per il momento possiamo solo viaggiare con delle ipotesi. Lo riscrive, se vuole andare a guardare oggi in home page, in questo momento, del sito del Sole 24 Ore, c'è proprio tutta la rosa delle informazioni disponibili fino a questo momento su questo tema. Si partirà dal 1 luglio dell'anno prossimo e, secondo le prime simulazioni che saranno al centro del dibattito dei prossimi mesi, gli importi erogati dovrebbero andare da 50 a circa 250 euro al mese per ciascun figlio under 21 a carico, e questa è una discriminante importante. È una misura che sarà indirizzata anche a lavoratori autonomi ed incapienti. È importante anche la copertura complessiva che lo Stato sarà in grado di mettere sul piatto per accontentare tutte le famiglie italiane che hanno i requisiti per avere questo importo. Da quello che sappiamo, l'assegno sarà composto, questo è un aspetto importante, da una quota universale intorno ai 50-100 euro per ciascun figlio, a cui si sommerà una quota variabile in base alla situazione economica nel nucleo, quindi in base all'ISEE che ha citato il nostro ascoltatore, fino ad azzerarsi intorno a 50-60 mila euro di ISEE. Quindi questa quota variabile chiaramente non verrà corrisposta a chi ha un ISEE particolarmente elevato. Sono poi previste anche delle maggiorazioni dal terzo figlio in poi per i disabili, e sono allo studio anche quelle per i nuclei monogenitoriali, per cui abbiate ancora un pochino di pazienza. Questo è quanto sappiamo, ma visto che c'è ancora 6 o 7 mesi di tempo avanti a noi, ci sono 6 o 7 mesi di tempo avanti a noi, potrebbe anche cambiare di nuovo tutto l'impianto, e quindi al momento questo è quanto siamo in grado di dirvi. Così come sono poche ma certe le informazioni che possiamo darvi a proposito della situazione in cui si può trovare un genitore lavoratore che ha figli costretti a restare a casa per la quarantena. Una partenza rock che ci consente di introdurre e salutare la collega del Sole 24 Ore, Valentina Melis. Valentina, buongiorno. Buongiorno a te, Deborah, e agli ascoltatori. Allora, parto da questo dato che avete pubblicato ieri sul Sole 24 Ore, che è stato un po' il calcolo di partenza, il presupposto per il vostro ragionamento, il tuo e quello di Matteo Prioschi. Fino al 10 ottobre, e oggi è il 20, quindi saranno di più purtroppo, gli studenti contagiati dal Covid erano quasi 5.800 di qualunque età. Ipotizzando classi da 20 alunni, significa che oltre 110.000 ragazzi, ed è un dato per difetto, hanno sperimentato la quarantena fiduciaria e appunto ad oggi, a 10 giorni di distanza, probabilmente saranno di più. Tema del giorno, visto che parliamo di scuola e di ragazzi che stanno a casa per la quarantena. I genitori lavoratori che hanno figli costretti a restare a casa per la quarantena. Come possono conciliare in questo momento, sulla base delle norme che abbiamo, questa situazione con l'impegno professionale? Valentina. Deborah, hanno tre chance fondamentalmente. La prima è quella dello smart working, per chi può e quindi per chi svolge delle mansioni che siano compatibili con questa modalità di lavoro da remoto. È chiaro che chi lavora in un supermercato, chi è appunto a relazioni con il pubblico, fa più fatica a fare questo tipo di scelta o di usare questa opzione. La seconda opzione è avvalersi dell'appoggio dell'altro genitore se è convivente, perché i congedi possono essere diciamo presi solo se l'altro genitore non è disponibile a casa. Perché, per esempio, ci sono dei genitori che adesso sono a casa perché hanno la cassa integrazione a zero ore. Allora, anche in questa ipotesi ci si avvale del contributo dell'altro genitore e non del congedo. La terza chance è invece quella del congedo. Come bene ricordavi tu, il congedo che viene indennizzato dall'INPS al 50%, che però, faccio una precisazione, tu parlavi di 110.000 ragazzi, è concesso solo ai lavoratori dipendenti. Quindi una prima cosa che dobbiamo chiarire è che non possono accedere al congedo, diciamo, retribuito al 50% i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione separata INPS. Quindi questo congedo, che vale fino al 31 di dicembre, vale solo per i lavoratori dipendenti. Il punto è quante volte si può chiedere, perché qua, da quello che ci sta capitando attorno, da quello che sta capitando attorno a noi, le situazioni appunto di necessità possono essere ripetute nel corso dei mesi, Valentina. Esattamente, questo congedo non ha limiti di richiesta, cioè può essere chiesto più volte purché per periodi compresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre. I lavoratori dipendenti del settore privato lo devono chiedere online all'INPS con le credenziali che ormai sappiamo, no? SPID, PIN per chi ce l'ha ancora. Invece i lavoratori pubblici devono fare domanda all'amministrazione di appartenenza. Che cosa succede? Che appunto però il congedo può essere chiesto anche più volte, ma c'è un limite di spesa. Ci sono 51.500.000 che sono stati stanziati. Superata questa somma, l'INPS ha detto chiaramente nella sua circolare esplicativa, non si accoglieranno nuove domande. Quindi una criticità che vi è stata anche sottolineata dai direttori del personale è che una volta finito questo plafond i congedi non saranno più retribuiti. E quindi che cosa potranno fare i lavoratori? Sostanzialmente usare i congedi parentali ordinari, se hanno ancora dei giorni che avanzano, o le ferie o i permessi. Non ci sono altre soluzioni. Allora, il congedo è incompatibile con l'attività di smart working, ribadiamolo. Sì. Sì. Chi è in smart working non può chiederlo. Il legislatore qui ha fatto una scelta abbastanza razionale, nel senso che dice se puoi stare a casa a lavorare e non sei in malattia e il bambino non ha un bisogno che è configurato come una malattia grave, allora a quel punto il congedo lo si dà solo a chi non può invece stare in smart working a casa con il bambino. Un altro elemento essenziale, siamo in una domanda in pieno conflitto di interessi, perché non ti dico stamattina che dibattito c'era in redazione, perché abbiamo molte colleghe che naturalmente sono mamme e che hanno i bambini in questo momento che vanno alla scuola materna, alla scuola elementare e non solo, ognuna ha praticamente un caso attorno a sé. Allora, un elemento essenziale è che il contagio del figlio per il quale la ASL abbia disposto la quarantena sia avvenuto a scuola o nello svolgimento di attività sportive, palestre, piscine, centri o circoli sportivi pubblici o privati. Deve esserci stato il contagio conclamato o solo un contatto per poter poi consentire al genitore che deve tenere il bambino a casa di avere l'accesso ad una delle disposizioni appunto di cui parlavamo poco fa, Valentina? Ma la norma parla di contagio, nel senso che appunto il concetto è che il bambino debba stare in quarantena e la norma parla appunto di quelle situazioni che tu citavi come la scuola o l'attività sportiva. Anche qui c'è un dubbio, perché non è così chiaro se il contagio durante l'attività sportiva poi dall'INPS verrà considerato equivalente a quello, diciamo, contratto a scuola. Questo ci aspettiamo ulteriori chiarimenti. La norma dice che per contagi che sono avvenuti in ambito scolastico o sportivo si può adottare lo smart working o in alternative come extrema ratio il congedo. Quindi io me l'ero spiegato proprio come che fosse necessario il contagio, insomma, del bambino, e che questo congedo non potesse essere invece utilizzato per i casi di quarantena fiduciaria, cioè di isolamento dell'intera classe. È comunque sicuramente una situazione molto molto complessa, e per questo comprendiamo le grandi ambasce nelle quali si trovano appunto tanti genitori in questo momento, soprattutto coloro che non possono in maniera molto flessibile da un giorno all'altro disporre la propria attività professionale in casa, appunto in modalità di lavoro agile, quindi in smart working. C'è altra informazione da dare su questo tema, Valentina, prima di salutarti? Qualcosa che non abbiamo detto ma che è importante che i genitori all'ascolto sappiano? Ma allora io direi di fare subito chiarezza sulla esigenza di questo congedo e sui giorni che possono essere chiesti. L'unica cosa da tenere presente è che vale solo per i giorni lavorativi, quindi a differenza nelle altre tipologie di congedo non copre i festivi e non copre le domeniche in generale, e quindi il calcolo dei giorni necessari, essendo che appunto la retribuzione viene ridotta al 50% nell'indennità, bisogna farlo proprio per i giorni effettivamente necessari. Informarsi sulla richiesta, perché appunto essendo telematica può avere le sue criticità, anche se ormai ci siamo abituati al dialogo telematico anche con gli enti pubblici e con l'INPS, però prendere per tempo le informazioni e non farsi scoraggiare, come dire, da eventuali criticità, perché è una chance che c'è e come dire, può essere considerata al pari di altre. Valentina, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Grazie anche molte. Sono le 11.30, devo raccontarvi la borsa per poi andare all'alfabeto del risparmio. I vostri soldi spendeteli, ve lo dice un genovese. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Due di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Ma cosa spiegate a fare, giovani, metodi di pagamento, se i giovani d'oggi non hanno un euro in tasca? Sono tutti disoccupati, precari e via dicendo. Ma io non so cosa spiegate, spiegateglielo ai vecchi. Io non la vedo così, e soprattutto non trovo accettabile parlare ai ragazzi con questi toni. Capisco che il momento non sia dei migliori, è una fase complicata quella che viviamo, e per i ragazzi negli ultimi anni c'è stata una grandissima difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro, ma che si guadagni poco o tanto, anche se è poco, è proprio quel poco di cui devono prendersi cura, naturalmente, per cui dobbiamo dare loro tutti gli strumenti, tutte le informazioni necessarie per come dire, avere una consapevolezza sulle possibilità che hanno, anche se queste in questo momento sembrano un po' compromesse a causa della crisi, ma anche a causa di situazioni che c'erano prima della crisi. Insomma, un piccolo editoriale anche per salutare la nostra ospite di oggi, che è Giovanna Boggio Robutti, direttore generale di FEDUF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio. Dottoressa Boggio Robutti, ben trovate, buongiorno. Buongiorno Deborah. Abbiamo riproposto la sigla della nostra rubrica del martedì, il nostro alfabeto del risparmio, le scelte per ripartire, la nostra rubrica del martedì organizzata in collaborazione con il Comitato Edufin, il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria. È ottobre 2020, siamo alla terza edizione del mese dell'educazione finanziaria, e oggi la puntata è dedicata proprio a spiegare ai nostri ascoltatori, per chi ancora non lo sapesse, io vi posso assicurare che ancora qualcuno la differenza fra bancomat e carta di credito in testa

li usano come i soldi, non sempre conoscendo così bene gli strumenti più adatti per gestirli efficacemente. E certo, e quindi questo significa che in primo luogo all'interno della famiglia forse non vengano trasferite le informazioni corrette anche su tutto ciò che cambia per quello che riguarda il mondo dei sistemi di pagamento, forse anche all'interno della famiglia non si discute abbastanza di questi temi, Giovanna. Ecco, sì, questo purtroppo ce lo dicono tante ricerche, ahimè gli adulti non sono molto più... acculturati su questi temi, quindi molto spesso le scelte sono fatte in maniera magari abitudinaria, non sempre razionali, non sempre così informati. Quindi l'ausilio della scuola è importantissimo, perché a scuola in qualche modo si riesce anche a introdurre questi argomenti. Parliamo oggi di pagamento, ma siamo sempre nell'ambito di quella che noi chiamiamo cittadinanza economica, quindi trasmettere ai ragazzi quelle indicazioni e competenze fondamentali per gestire i soldi, che sono uno strumento di benessere indispensabile nella loro vita. Quindi sì, tutta la vita parlargliene. Allora, intanto molti ascoltatori hanno preso naturalmente a farci delle domande sul tema del cashback, l'operazione che parte a dicembre per iniziativa del governo, e molti di voi ci state chiedendo se tutte le carte potranno essere utilizzate per avere appunto questa possibilità. Guardate, da quello che capisco possono praticamente essere utilizzati tutti i metodi di pagamento elettronico, carte di credito, di debito, bancomat, prepagate, le applicazioni di pagamento che citava poco fa Giovanna Boggio Robutti, molto scaricate dai giovani, non molto utilizzate perché utilizzano appunto i contatti. Quindi faccio due esempi che non vogliono essere una pubblicità, ma così vi entra in testa: ci sono Tinaba, c'è Satispay e tutte le altre. Le sole spese escluse sono quelle che saranno effettuate online, quindi sempre per citare il nostro grande amico Amazon, se fate una spesa su Amazon non è perché la pagate con la carta di credito che in quel caso avrete appunto una restituzione di una quota da parte pubblica. Ecco, questo mondo qua è escluso. Giovanna Boggio Robutti, la relazione con i contanti dei ragazzi ci racconta che cosa rispetto alla percezione che hanno del valore del denaro? E questo è un tema cruciale. Allora, ci racconta appunto che da un lato loro hanno questo mito del contante come una modalità più controllabile, più sicura per gestire soldi, e non è così, noi lo sappiamo. Tra l'altro appunto la pandemia ha fatto succedere un mare di cose, quindi oggi si usa meno volentieri il contante. Però ricordate che dalle ultime ricerche che ho trovato in rete sembra che ancora ci sia l'attitudine a usare i contanti per le piccole spese, quindi se è molto aumentato l'uso degli strumenti di pagamento elettronici con il Covid, purtroppo è rilevato che sulle piccole spese ancora i contanti noi li abbiamo in tasca. Invece le carte si possono usare anche per le piccole spese. Credo che questo sarà un altro salto epocale. Assolutamente. Il punto è che per le piccole spese, se tu entri in un negozio e chiedi di pagare con una moneta elettronica, con bancomat o carta, c'è chiaramente il commerciante che nicchia, perché il carico commissionale che cade su di loro è ancora molto elevato. E allora noi sappiamo che è allo studio questo protocollo per garantire ai commercianti zero commissioni sui pagamenti fino a 5 euro. Per quelli fino a 10-25 euro dovrebbe essere prevista la possibilità di ridurre fino ad azzerare le commissioni. Questo poi sarà un punto affidato alla libera iniziativa dei gestori, ma in ogni caso si cerca in qualche maniera anche di venire incontro inevitabilmente a tutti quei negozi che, se hanno un piccolo negozio, già spendono per avere appunto tutta l'attrezzatura necessaria per far pagare con carte bancomat i propri clienti, e tu arrivi lì e una spesa di 5 euro la vuoi pagare col bancomat e ti caricano una commissione del non so di che percentuale, è chiaro che il commerciante fa finta di niente e dice che quel giorno il bancomat non funziona. A ognuno di noi è capitato, non è un giudizio nei confronti dei commercianti, su questo siamo con voi. Adesso c'è il traffico, a tra poco. Potete tranquillamente andare a lavorare nei vostri uffici, ma raggiungeteli con i mezzi pubblici, non mi potete intasare di nuovo la tangenziale. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno, mi avete rotto le balle con sto traffico. Prendete i mezzi, fate il carpooling, basta che non mi intasate la tangenziale con le vostre macchine. Due di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Allora, molti di voi ci stanno segnalando un piccolo errore appunto fatto dalla collega Valentina Melis sul tema del contagio contatto dei bambini da Covid e quindi la possibilità poi per il genitore, se il bambino è in quarantena o da contatto o da contagio, che tipo di strumento possono utilizzare per o lavorare da casa oppure devono prendersi il congedo, eccetera. Ci ritorniamo domani perché oggi non ho tempo. Avete ragione sull'inesattezza detta, ce ne siamo accorti, l'abbiamo già discussa appunto con Valentina, domani ci ritorno, oggi non ho tempo. Scusateci, ma devo portare avanti appunto l'ultima parte dell'alfabeto del risparmio con Giovanna Boggio Robutti, direttore generale di FEDUF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Stiamo parlando appunto di giovani, abitudini di pagamento dei giovani italiani. Mondo digitale che sta cambiando e che sta offrendo sempre più opportunità, sono tutti nativi digitali i giovani dei quali parliamo oggi, ma per quello che riguarda appunto le abitudini di spesa, ecco, pagano ancora preferibilmente in contanti. Lo fa quasi tutta la collettività italiana, soprattutto se si tratta di piccole spese, per le ragioni che abbiamo detto prima. Detto questo, invece, Giovanna Boggio Robutti, ottobre, mese del risparmio, mese dell'educazione finanziaria. In che territorio si sta impegnando FEDUF? Che cosa state facendo questo mese? Voi storicamente siete partner ormai consolidato del comitato EDUFIN, un grandissimo impegno nel mondo della scuola, e che cos'altro per questa edizione 2020? Allora, in questa edizione sicuramente il focus è proprio sui pagamenti digitali. Abbiamo rifatto completamente il nostro programma per le scuole superiori, lo porteremo in tantissime scuole attraverso naturalmente le piattaforme digitali, ma le lezioni vengono benissimo anche così. Quindi un nuovo progetto, programma, che partirà proprio la prossima settimana, che si chiama Pay Like a Ninja, in cui l'orizzonte appunto esce da quello delle carte di cui abbiamo parlato, entra in tutto il mondo nuovo, comprendendo anche le criptovalute e infine anche un piccolo passaggio sul gioco d'azzardo, che ahimè purtroppo è molto presente nei telefonini dei ragazzi ed è purtroppo collegato col denaro. Ah, quindi questo è un tema molto importante che ha, immagino, anche un forte impatto sociale, quindi, come dire, tematica educativa che entra, come dire, trasversalmente anche in tutte le attività del mese dell'educazione finanziaria, ma ci sembra importante. Ci ripete l'iniziativa Pay Like a Ninja? Sì, questo è il nome del nuovo programma, ci saranno incontri per le scuole, si trovano tutti nel calendario del mese Dufin, quindi sul sito quello che conta, appunto, gov.it, e poi lo annuncio in anteprima. Faremo un bellissimo digital live talk, naturalmente digitale, dedicato al mondo dei pagamenti, che si chiamerà Posso pagare con carta. Quindi questo sarà un momento molto divertente, sempre rivolto alle scuole. Allora, c'è un messaggio che le volevo leggere, perché questa poi è una questione che torna puntualmente. Un ascoltatore dice: ma è uno scherzo, davvero si fa propaganda pro banche nelle scuole? Allora, come si vive con questo pregiudizio costantemente attaccato addosso, Giovanna Boggio Robutti, quando invece si è a capo di una istituzione come la vostra, che è impegnata in ben altra direzione? Perché poi c'è da fare, come dire, attività educativa, e poi c'è tutta l'altra gamba dell'attività, che è quella della tentare di sconfiggere tutti i pregiudizi quando si portano avanti certe operazioni. Esatto, io ci convivo bene, perché tutte le persone che ci dicono questa cosa, per fortuna ormai non l'ho proprio praticamente mai più sentita, una volta la sentivo di più, noi gli diciamo semplicemente: venite a vedere una delle nostre lezioni, sono aperte a tutti, e l'ultima cosa di cui si fa promozione sono proprio le banche. Peraltro noi siamo una fondazione che è stata costituita dall'ABI, ma non siamo una banca, e il nostro statuto dice che noi dobbiamo fare divulgazione e educazione finanziaria, quindi noi non vendiamo nulla, noi vogliamo rendere più formati i cittadini italiani, proprio perché dialoghino meglio con le banche, che è un vantaggio per tutti, per i cittadini e per le banche. Allora, intanto continuano ad arrivare altri ascoltatori che stanno commentando questa notizia che abbiamo ridato questa mattina, ma che per la verità abbiamo già presentato in altre occasioni su tutti i giornali, il tema del cashback, l'iniziativa appunto proposta dal governo, che partirà dal prossimo anno, ma c'è già una prima fase sperimentale pronta a partire a dicembre. Secondo lei, Boggio Robutti, non le chiedo ovviamente di fare un commento rispetto alle iniziative del governo, ci mancherebbe altro, ma possono anche iniziative di questo tipo rappresentare uno stimolo adatto per convertire gli irriducibili del contante verso la moneta elettronica, anche perché durante il lockdown, ma questo l'abbiamo detto tante volte, per farci portare la spesa a casa, fare l'ordine al nostro supermercato di fiducia, in realtà ci siamo dovuti adattare ad utilizzare di più gli strumenti elettronici, lo diceva anche prima Giovanna Boggio Robutti, e insomma mi sembra che non sia successo niente di grave a nessuno. Anche coloro che prima usavano malvolentieri bancomat o carta hanno dovuto necessariamente farlo nei mesi di lockdown, e mi sembra che non sia scoppiato nessuno scandalo in particolare. Quindi ci serve generalmente sempre un po' un'iniziativa forte per portare dei grandi cambiamenti nelle nostre abitudini, Boggio Robutti. Esatto, si tratta secondo me di favorire un cambiamento che ha senso per tutti, tra parentesi anche un senso di sostenibilità, quindi direi che tanti governi, tra cui il nostro, appoggiano questo, ma ha un senso anche appunto nella comodità, nella sicurezza, nell'economia di scala, ma anche nell'allenamento, lo dicevo all'inizio, su una gestione molto più attenta dei nostri soldi, perché usando appunto pagamenti digitali sono tutti tracciati, le nostre entrate e le nostre uscite, che significa sapere come spendiamo i soldi, quanti ne abbiamo ancora, via. Serve un cambio di mentalità, quindi benvengano tutti gli sforzi di tutti, anche del governo, perché questo aiuterà. Poi appunto ribadiamo anche, sarà un'opzione che se vorrete utilizzare vi sarà data facoltà in un negozio, nei centri commerciali, dove vorrete, a patto che si possa ancora continuare peraltro a frequentare questi ambienti, perché per come sta andando questa pandemia insomma dovremo aumentare ulteriormente le nostre accortezze in termini di circolazione, e quindi saranno delle possibilità. Se non volete che lo Stato vi restituisca 150 euro nel caso in cui si utilizzi tanto bancomat o carta, nessuno vi obbliga ad utilizzarle, naturalmente potrete continuare ad utilizzare i vostri contanti che vi piacciono tanto. Un minuto di tempo prima dei saluti, Giovanna Boggio Robutti, noi stamattina abbiamo parlato fondamentalmente di abitudini di spesa e le modalità con cui i ragazzi preferiscono pagare le loro spese, ma voi ne incontrate tantissimi durante tutto l'anno, non solo durante il mese dell'educazione finanziaria. Quali sono le altre preoccupazioni economiche che hanno i nostri ragazzi? Ma io credo che la più grossa sia davvero la loro proiezione sul mondo del lavoro, quindi si pongono correttamente questo. Io penso invece, essendo un inguaribile positivo ottimista, che ci siano dei lavori nuovi che nascono, ci siano grandi possibilità e spazi anche per tutto questo mondo che si sta trasformando appunto sulla via della sostenibilità. Quello che volevo aggiungere, perché non ho risposto prima, una domanda sul valore del denaro. Ecco, questo è importante. In un secondo, usare i pagamenti elettronici significa avere una consapevolezza maggiore dell'uso del denaro, perché pagare con una carta ci fa soffrire meno e quindi ci potrebbe stimolare. Invece è un bel dibattito questo, perché invece c'è chi ritiene che pagando con carta o bancomat si perda completamente il controllo delle proprie spese, come molti giovani appunto dicono, per cui dovremmo fare un po' una gara fra le due modalità. Allora la richiameremo per questo. Giovanna Boggio Robutti, direttore generale di FEDUF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, torniamo domani con il mercoledì del lavoro e la nostra puntata settimanale con INAP. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.